fare di più, facciamo un po' di rumore. Io ne ho uno e faceva che non abbia portato. Oh, una volta avevo il pony 23 canali con lo Schuer, quello che fa il scatto Schuer, quello che si allunga il collo, che cazzo, quando abbassavo la portata era brum, cazzo, ogni rumore che fa, ma l'ho sentito anch'io, cazzo, e gli altri non sai come lo sentivo, sembrava un coso, una bomba, cazzo. Però voglio fare una prova, Sì, voglio fare una prova. Luca, guarda questo segnale, guardati però, Ecco, adesso faccio un'altra prova con un altro a vedere. E lo guardo anche io, segnale, dai, che sono più distante. Ah, mi spoglia, perché sta di Marco, diciamo, ci mette tanto che aspetta il tavolo, io rifrigliatela. No, oh, dai, che sto riposando qua. Sono con l'apparecchio alle spalle. Guardate il segnale, prova l'altro, dai. E aspetta, mi devo spostare però, eh. Fai. Ora, devo parlare piano o distante. Attenzione, aspetta, ci è rimasto lontano. Antonio Bombolo, mi ascolti? Guarda, cioè non guarda, ascolta. Senti bene questa radio, dimmi se è migliore questo passaggio qua, oppure questo passaggio qua, vedi un po'? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sì, è meglio. Vabbè, il compressore, Giulio, metto che sono cupo. Vabbè, devo parlare piano. Se parlo forte, vedi che distorce. Cioè, se parlo piano, parlo con un filo di voce. Gabba. Ma uno ti sento abbastanza bene. Eia, Antonello? Eccomi qua. Adesso sono con quest'altro. Com'è il segnale? Di meno, no? Allora, qui sei 8.5-9, ho più 8.5 che 9. Allora va bene anche questo. Luca! E Luca tu deve aspettare. Ma consideriamo che sono con un antenino adesso, Adesso sono con un antenino, Tommaso. Le stazionarie sono a posto? Vabbè? Le stazionarie sono a posto? Quanto è lungo? Dunque, saranno 70-80 centimetri. Ma cos'è la coro? Eia! Un metro è alta. A un metro è quella. Ma non mi piace, la devo buttare in terra, non mi va. Adesso me la faccio fare una da Luca, me la faccio fare e la piazzo su. Luca! Già funziona bene. Ma non è che vada tanto, capito? No, per adesso la faccio, però me la faccio fare una e la Luca e la piaccio sul tetto, a posto della sposa. Sì, vediamo un po'. Ok, riprendi Marco. Ehi, Antonello, ci sei? Antonello sta lavorando, sta saldando. Va bene, vi saluto, dai. Non conviene uscire perché voi la giornata non è granché. Per oggi rinuncio, dai. Senti alle prossime, dai, mi dedico un po' ad altro. Un po' di pentitello, cioè, non è brutta la serata, mio. Dopo pranzo sto scendo in campagna, ho visto che stava bene, se la pera per la rietta, uno è in macchina, un lì, non non succede niente, il sistema è anche tranquillo o Marco. E non è per quello, diciamo che non ho tanta voglia, dai. Vediamo domani, tanto domani è festa, quindi magari domani non ho più voglia di uscire, dai. Vediamo. Beh, è sempre che domani è festa. Stavo pensando che domani sarei la piazza di sì, se invece no domani è festa, è lo piazza, che pereva, e se fai domani allora, ma... va bene ugualmente, stasera ti riposi e sei bello riposato per domani. Ebbè, Graziano. Ciao Marco, ebbè, allora. Ma è da stamattina lì, che era stato che erano le 11, era andato in campagna a tagliare l'erba. Ma avrà fatto il tempo a salire a campagna e a cucinare, a mangiare, se no che sia adesso ancora tagliando l'erba. Sicuramente mi sembra un sentirlo. Sì, è qua, avanti Graziano. Eia, e che c'è Rosa, che mi sono sul movimento. Allora va che mi vado in bagno. Una trombetta. Chi è Marco? Graziano, allora c'è Antonio Bombolo, c'è Gio Maria Colantennino, c'è in ascolto Luca, c'è forse Gigi Vulcano ancora, avanti. Cappa, salutori circolare, anche Carlotta, apposta, così posso prima, avanti Gigi, se mi copi. No, forse non era lui, attenzione Gigi Vulcano. Era Gio Maria, forse non lo sente. Ciao Graziano, mi senti? Cappa, chiaro e forte, rientrando da campagna, Monte Oro. E Cappa, io già ti sento già dentro da Monte Oro, sento forte e chiaro qua. Ti senti anche Luca, Gio Maria non ti sentiva perché c'era una l'antenna più piccola. Però l'antennino non è che può pretendere di più, ma sta andando rimasto stesso. Avanti Luca. Avanti Luca. Ma come sei arrivato, grazie? Proprio alla terra di Monte Oro, mi la sto passando adesso. Oh, io non lo sento, non lo sento quello lì, Come? Sta arrivando 9:10 adesso, è all'antenna di Monte Oro. Ciao, ciao Gio Maria, adesso ti ho sentito piccolino ma ti sento. Guarda, se non ti sento io non ti sente nessuno, beh, tutto te l'hai tagliata l'erba, non l'hai lasciato a domani? No, me l'ha lasciato questo per domani a chi ha giubato un paio di voci, pausa, mi ha diviso una pulla di birra a ogni pausa, perché c'era caldo. Capito, una pulla di birra, capito, Marco. Ma lì c'è che ruio, va. Quando ci vuole, ci vuole, non è che la bevo spesso, ma quando vivo, vero, bombo. Quando si vuole si vuole. Mari, devi capire, E c'è bala, grazie a io. E adesso sono nel posto quasi. Già ti sentiamo. Però vai, sono portati, ci sono riuscito a mettere a posto questa benedetta antenna, ragazzi. Marco. Ehi, sono in Colisse, dai. Sto andando a fare altro, dai. Vi saluto tutti. Cosa mai entra dopo, dai. Buonasera a tutti. Ciao Marco. Ciao Marco. Buon proseguimento. Piano piano parla però l'altra roba, senza fretta, con la calma. Non sudare. Ciao Marco. Vediamo un po' se si è svegliato Flipper, è quello, ho interrato, ho esagendo questo, avanti Luca. E non ti risponde quando con il dato in mano, grazie, canta. Senti. Dati senti con le orecchie. Perché c'è la carica, sto svoltando la spazzatura, riprendi. Va bene, fai bombalo. Questo è una negativa, mi arriva più frio, mi arriva. Ehi, lo sento. Dove sei? Nel posto, sì, grazie. Sto fermata a vedere la tua cattiva, dove sei a scuola, sopra, va. Dove c'è la scuola. Ehi, ti sentiamo, vai. Io spero meno ti sente bene, magari Antonio che con quell'antenna, che però dovrebbe ascoltarti ugualmente. Oggi non mi sono passata a invitare il gatto, non sono piena a bocca e non mi. Sì, tu hai altro. No, mi sono passato proprio negativo, per esempio, e sono quel posto proprio, come questo tipo benissimo, quando era Monteoro, adesso sono quel posto, cazzo non mi sta tirando fuori. Ma già, ovviamente è un paracchinetto, non è tanta potenza, anche con l'antenna corta sicuramente, no? Tutta l'antenna è a tu, poccanzi, per esempio, ero con l'antennino e non lo sentivo io. Lo sentivo, ma basso, e non capivo cosa stavo dicendo. Adesso magari attaccato l'antennone lo sento bene, e così sarai tu. No, io poco fa lo sentivo benissimo. Atto, non è che c'hai un riduttore delle cuffie, lo spinotto grosso, però all'uscita piccolo, mono però è. Sì, ti ho capito. Non ne ho perché quelli che avevo li ho usati. E io ce l'ho, ma è stereo, mi serve mono, e il grosso mi serve mono, capito? Ma con il tuo qua è stereo. Perché c'è questo qua che metto lo stereo, senza una parte solo, mentre invece mettendo quello al mono li sento a tutti e due parti, capito? Però siccome lo spinotto è grosso e quello delle cuffie è piccolo, capito? Allora mi serve l'ingresso grosso e mono e l'uscita piccolo, capito? Ho capito tutto. Ma non ce l'ho la domanda, però volentieri. Peccato, vediamo un po' se ce l'ha Luca. Flipper, io canta dalla voce, dai. No, non farò. Lo stupidino adesso. La sorpresa risponde, no. Vabbè, dai, vediamo un po' Graziano se è salito. Avanti Graziano, dove sei? Sulla 131. La 131, sì. Adesso già ti sente bene, bombolino. A voglia che lo sento adesso. Mi senti, grazie. No, quasi di fronte a Città Marcato. Sulla 131, sì che ti sento, bombo. Allora ti sento una meraviglia anch'io. Cava, ti sento benissimo, tranquillo. Anche a Gio Maria già lo sento. E a me mi senti, grazie. Sì che ti sento. Passa la radio mia, è vero. Un pochino, bombo è più squillante, diciamo, va. Ehi. Bene, va. Riprenditela. Se ti avvicini qua, controlliamo lo smitter. Cos'è tu? Se ci avvicina qua non vogliamo lo stesso. Quanto è il segnale da te? Io, di Graziano. Da voi ciò che si chiede a chi vorrei un bene. Da già vedo, mi vedo, un po' di ghiaccio, ma freddo, anche un po' di cubetti di ghiaccio. Ah, te. È meglio un po' di salario, un sacco di bene. Non li posso mangiare, Bevarone. E non un po' mangiare, Bevarone. Da voi si lamenta che si sente male. E ormai a Ferruzzi che ti buona posta a te. San Maria è in bassa mazza, vicino a me, oggi la busta, carriola, furchettone e rastrello. Ah, te, tu già sei stata a lavorare allora, Sei stato fresco, sei stato come Ferruzzi, certo. E fatti la tu, loro rifanno. Oh Marina, riprendo la casa che sono quasi arrivato, là, che lo spendo. Appena salgo l'attacco in casa. Ehi, mi raccomando, è andata tutti in macchina a farvi dare un baracchino. Stai con calma di mo. In bassa matta e pare una bucchia cinese di sera. Ai caro caro, e tu sei buon posto, no? Allora, chi la farò? Ciao Mario, come ti arriva a casa? Io ho capito che mi vuoi venire dalla Patrizia. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, ciao Ru, ci sentiamo alle prossime, ciao. Ciao, mi aspetto un attimino, Antu. Dai, ci stiamo facendo un quarto gol, dai. Sì, non è problema. Ciao. Via. Tutto. Io sono al telefono. Un telefono, vedi? Facevamo da telefono. Oddio. E allora? Via, stiamo venendo un giorno a trovarti. Che ti fa piacere. Quando vuoi, lo sai. Non c'è problema. Ma non è ancora arrivato. vive benissimo, c'è problema. Nulla, tu cosa mi racconti? Vuol dire che sta trombando quello. Guarda, noi ci possiamo mettere la mano sul fuoco, possiamo bucare. Sono Trizza. Cosa? Vabbè, sono una Trizza. Oh, lui in casa è stato per dire che sta facendo per poco. Sì, vabbè, non ti preoccupare. Ci vuole soldi e uccello. Se continua a fermare ci mette in basso, raga. Conosco, ah, conosci tu da me che conosco io, i cazzo. Non mi sentite? famiglia, magari in distanza ci vuole. Troppo in cartone, ma troppa occasione in ginuta, no? Non ve nessuno. Dai. Non facciamo gli arroganti.